English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Anche questa puntata sarà in tema cinematografico. Stiamo un po' tornando sulla Mostra del Cinema di Venezia, tutti i personaggi che abbiamo incontrato nei 10 giorni veneziani. C'è stata un'attrice che tra poco sentirete, parla un inglese, direi, ci ha conquistato, Giulia, questo inglese di Tilda Swinton. Lei ha presentato un film italiano, Io sono l'amore. Lei è molto amica del regista Luca Guadagnino, ha recitato insieme a Alba Rohrwacher, ma sentiamo come mai ha deciso di girare questo film con Luca Guadagnino, Tilda Swinton. My adventure started maybe 25 years ago. I don't know when I met him. I've known him for a long time. He was, I think, 22 when I first met him. He's been a friend and a brother for all that time. We have made a couple of films together, experiments. This also is an experiment of a different kind. But we have been talking about this film for 11 years. He says it's 7, but I think it's 11 years. We've been talking about it and building it. And one of the, at a certain point in the discovery of the story and the milieu, we thought of Alba and I as mother and daughter. It was a sort of perfect. That was a very happy, but completely organic and luxurious process to build a film around people who, you know, Luca knew Alba and I met Alba through Luca. It was a very organic process. Eccolo qua, Giulia, questo accento di Tilda Swinton, nata a Londra, proprio lo abbiamo controllato, è una londinese perfetta. Lo conosce da un po' di tempo, Luca Guadagnino? Sì, evidentemente c'è un po' questa affinità elettiva, dice addirittura c'è stata la sua Adventure Within started 25 years ago, quindi si sono, lei lo spiega poi, I've known him for a long time, questa forma verbale che abbiamo già visto tante volte, I have più il participio passato e poi si mette for e si indica per quanto tempo e dà l'idea appunto di una cosa che è durata, può essere 5 minuti, 5 anni o come in questo caso 25 anni. Infatti dice for all that time, per lungo tutto quel periodo di tempo, utilizza ancora lo stesso tempo verbale. E dice he has been a friend and a brother for all that time, quindi I have known him for and he has been a friend and a brother, quindi un amico e un fratello. Tra l'altro questo film è un esperimento, perché evidentemente a loro piace sperimentare, piace cercare nuove idee, un esperimento che però anche qui, sempre con lo stesso tempo verbale, ha impiegato molto tempo per realizzarsi. Qui addirittura più complicato, come un po' come nella settimana scorsa avevamo visto Soderbergh e Matt Damon che ci avevano messo molto tempo per realizzare il loro Informant, qui Tilda Swinton e Luca Guadagnino, lei dice we have been talking about it for 11 years, quindi erano 11 anni, diciamo in italiano, che ne parlavamo. Anche qui la forma verbale che dà l'idea, addirittura con we have been e poi il gerundio, per dare l'idea di una cosa che si è svolta per tutto questo tempo, un'azione che si è svolta, in questo caso appunto la riflessione, la discussione sul progetto cinematografico. La storia di Io sono l'amore riguarda una famiglia molto ricca, una famiglia immaginaria, però diciamo una famiglia in un milieu, e lei utilizza proprio questo termine molto aristocratico, molto particolare. Sì, gli inglesi hanno questo, prendono in prestito ogni tanto queste parole francesi e le poi veramente le utilizzano quasi senza farci caso, e naturalmente la traduzione dal francese in italiano di milieu è ambiente e significa proprio questo, quindi the story and the milieu, quindi la storia, cioè quindi lo script, ma anche l'ambiente in cui si svolge, che poi appunto girato a Milano, però teoricamente ambientato a Torino, ma in fondo a un certo livello di alta borghesia probabilmente non erano poi tanto diverse le due città. Diciamo che c'è una rassomiglianza assolutamente sbalorditiva tra Tilda Swinton e la ragazza che è la sua figlia nel film, che è la splendida Alba Rohrwacher. Lì c'è stato appunto un incontro casuale che però ha reso l'intero film più omogeneo. Sì, però secondo Tilda Swinton appunto uno dei pregi del film, perché addirittura dice che è stato poi un completely organic and luxurious process, quindi un film lussuoso, non lussurioso, attenzione, perché è un film built around people, quindi costruito intorno alle persone, e Alba and I, quindi io e Alba, as mother and daughter, come mamma e figlia, sono appunto perfette, sono una coppia, secondo lei, credibile. Poi noi quando vedremo il film giudicheremo. Lei è particolarmente nobile nel suo aspetto, lo è anche nel film. Sentiamo come Tilda Swinton parla del suo personaggio. She's not Italian, she is an alien. So for me it was very easy to imagine being an alien. Always easy to imagine being an alien. She is someone who comes from a very restricted milieu into another restrictive milieu. And she disguises herself as this haute bourgeois Milanese donna and makes herself appear to be a perfect specimen, but of course she is a fake. She is like a machine. She has programmed herself, or been programmed. She has been bejeweled and clothed and painted to look like the authentic thing, but she's not. She's a fake. Una donna italiana, anche se russa di origine, nel film, ma non è la rappresentante tipo della donna ricca italiana, anzi lei ha tutt'altra definizione. Si dice addirittura che she's not Italian, she's an alien, quindi è un extraterrestre alien. E qui è divertente perché ci dice qualcosa sull'approccio di Tilda Swinton ai personaggi. Dice it's always easy to imagine being an alien, quindi per lei come attrice è sempre appunto facile immaginarsi o calare in questi personaggi così strani. Effettivamente l'abbiamo vista in personaggi, adesso chiamarli extraterrestri un po' troppo, però sicuramente molto originali. È una che si vede che i ruoli li sceglie con molta attenzione. C'è poi a un certo punto nel suo ragionamento tutto un ambito di termini, di verbi che riguardano la finzione, il mascheramento. Lei come si esprime? Dunque, allora, è molto interessante, quindi, perché dice questa donna she disguises herself as, quindi si maschera come. To disguise oneself as vuol dire mascherarsi da qualcosa, fare finta di essere qualcos'altro. E she makes herself appear, di nuovo, quindi to disguise herself, to make herself appear. Quindi fa in modo di apparire, di far apparire se stessa, to be a perfect specimen. Specimen è la razza, una speciale razza di essere umano, come potremmo dire, come fosse una razza di gatto. Ecco, uno vuole essere un siamese, lei si sceglie un tipo particolare di persona a cui vuole assomigliare. Come se ci fossero delle regole per essere fatta nel modo in cui lei ha deciso di essere. Quindi all'inizio dice she's programmed, quindi she è programmata, quindi she is programmed. Poi in realtà dice she has been programmed, è stata programmata, quindi lasciando intendere che non è tanto lei che si è messa in testa di essere un personaggio, ma in qualche modo l'ambiente, il milieu, di nuovo, di cui parla prima, questo restricted, anzi restrictive, quindi un milieu dagli orizzonti ristretti, anzi che ti restringe gli orizzonti, l'ha resa così. Allora, she looks like the authentic thing, cioè assomiglia a qualcosa di autentico, però... But she's a fake. Fake vuol dire falso, tra l'altro anche quando parliamo degli orologi falsi sulle spiagge possiamo dire così. E poi è interessante questa cosa quando dice she was bejeweled, clothed and painted. Bejeweled è un rafforzativo, è come dire beloved. Loved vuol dire amata, beloved molto amata. Quindi jeweled, ingioiellata, bejeweled, super ingioiellata. Film girato in una location bellissima, una splendida villa di Milano che è stata recentemente riportata agli splendori di un tempo, Villa Necchi, che è una protagonista del film, come dice Tilda Swinton. The protagonist of the film, the old protagonist of this film, is that house, the Villa Necchi. It is like a museum, and she is an object in the museum, a little prison. A stage also. There's something very theatrical about that house. I think, honestly, I wonder how it would be possible to live as a human in that milieu and not be fake. Everything is so codified, and so all of them are reaching to some kind of slightly theatrical level of reality. It's not reality, but the code is so programmed. You know, you have diptyque candles, you wear this, you wear these jewels. This is what you do. It's like a script from a play, and they are all actors. Yes, she is kind of, she's the free radical in the heart of it as an alien. But I don't think, I don't really know how anybody born into that society can be really authentic as a human, because it's kind of anti-human in a way. Lei lo dice, tra i protagonisti del film c'è quella casa che è veramente, la cui presenza è veramente ingombrante in Io sono l'amore. E qui è uno dei tanti indicatori del suo essere inglese, perché un americano avrebbe detto the star, mentre lei dice the protagonist is the house, Villanecchi, is that house, Villanecchi. E questa Villanecchi è stata restaurata dal FAI ed è veramente effettivamente molto vicina a Piazza San Babila, a chiunque ci capiti consigliamo di andarla a vedere, perché it is like a museum, è come un museo. Non solo è un museo, però per chi ci vive, cioè questa famiglia fittizia immaginaria del film, addirittura una prigione. Diventa appunto un little museum, ma forse meglio little prison, perché come vedrete, insomma, è stata, tra l'altro è stata restaurata e noi la vediamo oggi proprio come era allora, come era quando ci viveva la famiglia Necchi, e vi renderete conto che sembra appunto che un posto come nei musei, dove non si può toccare niente, quindi si è degli ospiti, è la casa che ci ospita. E nel caso di questa famiglia, protagonista di una finzione. Protagonista di una finzione, tanto che appunto si presta molto a essere proprio uno stage, quindi un palcoscenico, però sul palcoscenico, come sappiamo, va in scena non la realtà ma la finzione. Quindi la vita di queste persone, lei dice, live as a human in that milieu and not be fake, quindi vivere in un ambiente così e riuscire a non essere falsi, a non essere qualcosa di fasullo. Vivono in un livello di realtà, questo level of reality, slightly theatrical. Quindi lo dice appunto, sarà la casa, sarà quello che si sono raccontati, che si sono programmati, però alla fine they live in a slightly theatrical level of reality, quindi si sono costruiti una realtà quasi teatrale, perché appunto la casa è uno stage, è un palcoscenico. Arriverà presto nei cinema italiani Io sono l'amore di Luca Guadagnino. Non abbiamo sentito la protagonista con questo splendido accento, Tilda Swinton. Bellissimo. Il nostro tempo radiofonico però per questa settimana finisce qua. Noi vi diamo l'appuntamento in edicola con il nostro English 24 e ancora insieme in radio sabato prossimo. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.